Cioro, sei di Deia, e allora salva sta città. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti indenni dagli ultimi 10 anni. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. Piedi che camminano in un quadrato piccolo, peso dentro me, tutto questo è ridicolo. Gente che rincorre la grana e la fama, ma se ci nasci muori figlio di puttana. Da Pierina Bastian, si spalle il mio clan, c'ho lo sproduzione, qui si deve birra e no champagne. You know man, Frankie B, on the beat. Oh say. Pronto a tafferuglio con onore e con orgoglio, cordone con gli scudi quasi quasi mo lo sfondo. In questo porco mondo non ne va giusta una, il fratello sulle spalle pesa quanto io con Zuna. Mi pare di divertimento qui si digiuna, mille pattuglie ronde, la notte si fa buia. Ehi, sono attenti, favorisco i documenti, mi guarda nelle tasche, controlla i suoi precedenti. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti interni dagli ultimi 10 anni. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. Problemi su problemi, basti su basti, e dopo i miracoli facciamo ampi pasti. Le situazioni tese per me sono antipasti, fanculo l'anticristo, sono dell'anticrasti. Le situazioni, casi disperati, e noi giovani sbandati sulle strade riversati. Qui per poco e niente si diventa criminale, aghi nelle vene di una vittima del proprio male. C'è tempo per cambiare, devi solo svoltare, puoi continuare o puoi rinunciare. In salita o in discesa, quando la corda è tesa, se vedi che molla aumenta la presa. Hey la, underground player, cresciuto tra la gente imponente. Gozze Vineia, evita gli scazzi, legati ai nostri passi, mando avanti le fazze che qualcuno ci salvi. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti interni dagli ultimi 10 anni. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, più o meno usciti indenni dagli ultimi 10 anni. Gozze Vineia, Rione San Giovanni, ne siamo usciti vivi in paradiso tanti santi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,